someone to trust. It doesn't matter why. Heal each other daily, make the babies cry. Think we can and we still try it. We must survive. Mankind, what has I? It's amazing. Our work is done, we fight. It's frustrated alive. Base days on lies. That price rise. No poor guy standing by. We're scared of dying. Sentire un po' al telefono, se che cazzo. No, no, perché secondo me è un CD interessante. Mi hai chiamato per sta cazzata? Sì, no. Bello. Sono le 5 del mattino. Secondo me è valido, dovresti sentirlo. Quindi se ti va, non mi va al telefono, va bene? Hai visto che amico? Sì, di merda. Grande.